al Festival di Letteratura Sociale nel centro di Firenze, nel nostro angolino delle interviste. È Lello che vi parla e abbiamo qui una serie di compagni che si presenteranno da sé. E prego, il primo. Buonasera a tutti, sono Edoardo di Affluenti, Nuova Poesia Fiorentina, e passo la parola a Jonathan Rizzo, ospite affluente ben accogliente. Massimo, affluente e amico. Perfetto, abbiamo quindi un trio bello scoppiettante. Cominciamo con la nostra intervista, perché abbiamo una pubblicazione perfettamente in linea non solo con lo spirito del Festival di Letteratura Sociale, ma con il dibattito che c'è stato e che avete ascoltato in radio per tutto il pomeriggio, perché si è parlato oggi proprio di poesia. È stata una giornata completamente dedicata a questo. I compagni che sono qui presenti vogliono presentarci una nuova pubblicazione, che in realtà appunto è una nuova edizione di un libro già uscito, diranno loro, quanto tempo fa, perché non gliel'ho chiesto prima, in precedenza. Il libro è titolato Il Labirinto ed è stato ideato, non solo scritto, ma ideato nella sua prima anche edizione dal suo autore, Hassan al-Nassar, che è un poeta esule. Io ho chiesto a loro se potevo utilizzare questa definizione, mi hanno autorizzato. Un poeta esule. Poi attraverso l'intervista cercheremo di capire che cosa significa questa definizione. Ecco, innanzitutto volevo chiedere a chiunque di voi tre mi vuole rispondere il carattere di novità di questa nuova definizione rispetto alla vecchia. Sì, e ti rispondo diciamo avendo anche curato un po' sia l'edizione vecchia precedente che quella nuova che sta uscendo in questi giorni del Labirinto di Hassan. E una delle differenze fondamentali è che questa nuova edizione del Labirinto intanto è la prima ad essere pubblicata da un editore indipendente, ovvero da Edizione Ensemble, laddove una primissima versione cartacea semi-autoprodotta era stata pubblicata da Hassan nel 2013 con un'associazione qua di Firenze che si chiama La Penultima, e una seconda edizione era uscita nel 2015 con Matiscolo Edizioni, casa editrice digitale della Liguria. Quindi è la prima edizione con un editore indipendente in cartaceo del Labirinto, la quale si avvale, oltre che dei testi già pubblicati dal 2013, anche dei testi che Hassan aveva pubblicato come inediti in Affluenti Nuova Poesia Fiorentina, ovvero l'antologia che appunto ha iniziato questo percorso qui a Firenze, che poi adesso diventerà una collana editoriale all'interno di Ensemble, che si apre proprio la collana di Affluenti con Il Labirinto di Hassan al-Nassar, e abbiamo inserito in questa nuova edizione sia i testi di Affluenti Nuova Poesia Fiorentina pubblicati da Hassan, sia anche alcuni inediti che avevamo di Hassan, che chiudono in appendice questa nuova edizione. Perfetto, Edo. E io un po', perché ho avuto la possibilità di sfogliare tra virgolette il PDF, perché per un piccolo problema, diciamo così, tecnico, la pubblicazione che doveva essere pronta per questo festival è stata rimandata di circa una settimana, se non vado errato, vero? Sì, il libro è praticamente stampato, solo che il tipografo ha avuto un piccolo guasto a macchinare e quindi non sono riuscito a spedircelo col corriere in tempo per oggi, ma il libro è tecnicamente aveva appena finito di leggere l'ultimo libro di Jonathan Rizzo. Che sorte. Comunque, insomma, è un'anteprima che poi in realtà è di un libro che è uscito, semplicemente lo si può già trovare, insomma, dalla prossima settimana, e lo presentiamo in anteprima qui questa sera alla Polveriera. Ok, allora sono 11 testi poetici direttamente curati dall'autore, cioè l'autore pensò questi 11 e scelse questi 11 testi poetici nella sua prima edizione, a cui avete aggiunto altri 4 che erano stati pubblicati da voi invece sul sito, se non ho capito male, sull'antologia di Affluenti. Ok, e poi ci sono invece altri 3 inediti, di cui 2 hanno titolo e uno invece è privo di titolo, tant'è vero che me l'hai fatto segnare sul mio fogliettino con tre puntini di sospensione, no? Tra l'altro, agli altri due compagni, se volete intervenire, strappate pure il microfono dalle mani di Edo senza problemi, senza alcun... No, io faccio giusto la prima parte solo perché è un po' più tecnica, ma poi ovviamente quando Perfetto. Si passa la poesia sul vino c'è Jonathan e poi anche Perfetto. Massimo. Allora, andando direttamente al contenuto, all'essenza di questo libro, leggendo l'introduzione, la prefazione scritta da Tedo, io sono rimasto colpito innanzitutto dal titolo, e penso forse che sia importante per chi ci ascolta cercare di capire perché Hassan ha scelto questo titolo, il labirinto. Sì, io faccio qualche accenno, poi mi piacerebbe che anche Massimo e Jonathan dessero un loro punto di vista. E io penso che sia emblematico quest'opera in Hassan anche come opera della sua ultima fase, perché purtroppo Hassan Athi al-Nassar è venuto a mancare lo scorso dicembre, e proprio perché forse è stato il momento in cui lui, nell'ultima fase della sua vita e della sua produzione poetica, che ci ha regalato dei testi secondo me di un'importanza incredibile, e che il labirinto ha dei testi che sono secondo me fra quelli di più di spessore, soprattutto alcuni in generale del percorso poetico, della parabola poetica di Hassan, forse questa sua ultima fase di vita, di esistenza e quindi anche di poesia è stata quella in cui in qualche modo ha sentito come più definirsi i contorni appunto ancora più fortemente e pesantemente di questo labirinto esistenziale in cui in qualche modo lui che lo caratterizza per la sua vicenda storica, ha fuggito dall'Iraq molto probabilmente nel 79 perché oppositore al regime di Saddam e si è trovato a vivere appunto due ed infiniti esili, perché all'esilio iracheno si è aggiunto in qualche modo anche un esilio nostrano, e fatto insomma appunto di un labirinto di vita e di esistenza qua a Firenze, che non era certo meno appunto problematico di quello da cui era scappato. Vai Massimo, ecco, vai. Hassan era di Nasiriyah. Nasiriyah era Ur. Una risposta a cos'è questo labirinto, dov'è questo labirinto, dove si trova, mi viene da una sua poesia, L'ultimo pianto di Ur, dove si rivolge a figlia di Ur, dove vaghi? La vita che tu cerchi non la troverai. Riempi il tuo ventre di bambini, ti dovrò vesti per il tuo corpo, pane per il cibo, per la tua verginità. Tu sei un braciere che si estingue nel gelo, una porta che non sostiene il vento e la tempesta. Per tutta la vita ti seguirò come straniero, passo dopo passo, come un'ombra sconosciuta. Non voglio sentirti come un serpente che scivola sul mio corpo. Non ti devi avvicinare dove io sono. Dove io vado, non devi andare. Dove io entro, non devi entrare. Io seguo ogni tuo passo, uomo di frontiera stanco di un'altra notte senza frutti. Quindi l'esilio è prima di tutto interiore, da se stesso e da qualcosa che è dentro se stesso e intorno a se stesso, che poi combacia con la vita del poeta che ha lasciato l'Iraq, l'ha lasciato quando c'era la guerra ingiusta, assolutamente ingiusta, di attacco all'Iran, per non combattere quella guerra assurda, e ha vagato in Europa, Italia, Francia, di nuovo in Italia. Però il suo vagare non era solo un vagare geografico, era un vagare interiore dietro a questa figura e tra queste figure, di cui aveva una sensazione concreta, no? Come una serpe che mi striscia addosso sul corpo. Ecco, ora anche per spiegare meglio a chi ci sta ascoltando e magari conosce per la prima volta questo poeta, Hassan era scappato dall'Iraq, se non sbaglio, nel 1979. e se non vado errato ha avuto anche un fratello ucciso per le sue scelte, no? E quindi Hassan vive questa condizione di esilio, e prima abbiamo discusso tra di noi se era un esilio ufficiale, no? Oppure se è un esilio di tipo nuovo, no? Hassan va via per evitare la fine del fratello, Hassan va via per rifiutare una complicità con un regime esistente, Hassan va via già da scrittore, se non vado errato, e se va via da scrittore, forse non da poeta, però da novelliere, da scrittore, se volete, se vogliamo raccontiamo anche questo passato di Hassan. Ci dicono che era conosciuto tra un gruppo di giovani che scriveva racconti brevi con l'intento di rinnovare la letteratura araba, avvicinandola a forme occidentali di narrativa realistica. Questo era Hassan prima di partire. Aveva pubblicato anche delle poesie, ma era noto come giornalista e scrittore, giovane ma promettente. Quando poi abbiamo chiesto a chi lo conosceva in Iraq, ma poteva tornare, sarebbe potuto tornare, tutti ci hanno risposto, Hassan compreso, sarebbe potuto tornare, gli avrebbero fatto ponti d'oro adesso. Però cosa sarebbe successo? L'Iraq non è libero, è diviso tra fazioni bacchettone religioso e fanatico. Quindi si sarebbe dovuto schierare con una di queste fazioni religiose. Quindi tutto in contrasto con come aveva vissuto e il motivo per cui aveva lasciato, cioè di non sottomettersi, se lo sarebbe visto riproporre non più dalla dittatura di Saddam Hussein, ma da queste dittature che ci sono adesso. Quindi Hassan va via dall'Iraq, rifugge, è una scelta politica, va via da intellettuale, da giovane intellettuale. Quanti anni aveva Hassan quando va via dall'Iraq? Ma penso poco, 25 o poco più, molto, cioè, perché quindi, secondo biografie ufficiali è del 54, forse del 52 secondo alcuni documenti, ma se lo paragoni al 79 si parla di poco più di 25 anni, insomma. Perfetto, quindi è un intellettuale, un giovane intellettuale che contribuisce con il suo ingegno, con le sue forze alla vita politica e intellettuale del suo paese. Prego. No, scusa, ascoltavo questa, diciamo, esegesi, no, della formazione letteraria di Hassan, e mi ha colpito il fatto che negli anni 70 in Iraq la rivoluzione culturale era l'Occidente. E questo che è affascinante, no? Se guardiamo poi a tutto lo scontro, il contrasto che abbiamo noi occidentali con il mondo arabo. E invece per chi era, come dire, non religioso, non militarizzato, l'Occidente era, negli anni 70 chiaramente, parliamo, contestualizziamo, era una sorta di oasi a cui mirare. Questo è curioso e affascinante. Scusate, no, è una cosa che non volevo che cadesse perché è l'inizio della poetica di Hassan, comunque. Volevi aggiungere cosa, Massimo, su questo? L'Occidente con le oasi è una bella figura, effettivamente. Anche questa è poesia. No, e quindi lui arriva, riprendendo questo filo di questa sua peripezia, arriva qui in Europa, no? Ora, tralasciando se ci sono state altre città d'Italia in cui lui ha vissuto, arriva a Firenze e vive quindi questo rapporto con l'Italia e con il paese che ha lasciato. E in questa lacerazione forte che viene messa in luce nei testi da lui scelti, no? Che giustamente Edo poi sottolinea come tema, come argomento principale, come filo conduttore, no? Tra queste due madri, una madre naturale e una madre adottiva, no? E prima, chiacchierando con Edoardo, io ho chiesto: ma questa madre adottiva lo ha accolto? L'Italia è stato in grado di accogliere questo giovane poeta esule alla fine degli anni 70 che arriva? E sapendo poi le trasformazioni che ha vissuto questo paese, perché comunque, insomma, non è lo stesso paese degli anni 70. Ma diciamo, Hassan è stato accolto e non accolto, nel senso che appunto io penso che quello che dicevo prima, cioè il fatto che ha vissuto due e infinite esili, era appunto anche il riferimento al fatto che Hassan è stato forse non meno esule a Firenze per molti aspetti che in Iraq, nel senso che il contesto italiano, ovviamente europeo, per fortuna gli ha dato una possibilità di status di rifugiato politico, però di fatto a discapito anche di molta appunto attenzione, affetto e vicinanza di tantissime persone, amici, collaboratori in tanti anni, anche le istituzioni qua a Firenze e in Italia poi di fatto non hanno mai dato una vera e propria risposta adeguata e alla situazione di difficoltà, di disagio e di indigenza forte che Hassan aveva, che non ultimo è stata anche quella che poi forse gli è stata purtroppo fatale nell'ultimo periodo di vita. È morto anche relativamente giovane, aveva 64 anni e viveva in una condizione molto molto difficile, aveva sempre avuto questa condizione anche qua in Italia, a Firenze, ma in quest'ultimo periodo varie problematiche anche diciamo di rapporto istituzionale, insomma, e di situazione economica e di vita, gli sono state probabilmente un peso, insomma, molto forte in questa sua situazione. Infatti tu nella tua prefazione parli di esilio psicologico, no? Cioè, quindi da leggere questo tema, questo argomento dell'esilio, non solo proprio politicamente, perché comunque Hassan è stato anche un uomo politico, ha avuto un suo impegno politico, però è un esilio psicologico, no? Che attraversa... Sì, diciamo, se volessimo provare a vedere la questione da un punto di vista proprio formale, Hassan fugge dall'Iraq come profugo, poi probabilmente come rifugiato politico poi qua in Italia. Se non c'è un documento che ne attesta l'esilio formalmente dall'Iraq, di fatto è un poeta d'esilio a livello proprio di esistenziale e di poetica che lui produce, legata appunto a questo confronto continuo fra i luoghi fisici che in qualche modo lo hanno accolto qua a Firenze, in Italia, in Europa, e quest'Iraq che dal luogo storico perduto diventa quasi proprio un luogo mentale. A me a volte sembra quasi che Hassan diventi una sorta di allegoria della condizione umana e quasi una specie di non so se dire di neanche di paradiso utopico, ma quasi un possibile filo di Arianna da provare, diciamo, a cucire, per provare a trovare una possibile via d'uscita da questo labirinto, no? Allora, mi ha colpito delle poesie di Hassan è le immagini che lui dà in maniera molto viva e netta e credibile dell'Iraq, perché io, che non ci sono mai stato, sono abituato a un'immagine cartolina, cioè il deserto, le rocce, il deserto, no? Poi dopo le città, le bombe. Invece Hassan parla continuamente di neve, boschi, acqua, tantissima acqua, anzi il segno di deprivazione e di caduta, non solo militare ma soprattutto morale, no? Nel suo paese lui lo esprime con ti sei denudata della tua acqua, quindi un posto completamente diverso da come ce lo immaginiamo e da come ci viene consegnato dalle cartoline. Perché ovviamente noi stiamo parlando di Nassiriya, di Ur, ha una potenza evocativa incredibile. Ora, il luogo suo di partenza, no? E ovviamente lui ci gioca anche su questo, leggendosi alcuni versi della poesia che, se non vado errato, Edoardo, te consideri forse quella che L'ultimo pianto di Ur, esatto, che è un suo capolavoro secondo me, e penso sia il testo forse più di spessore del labirinto. Io penso forse, se non il testo più di spessore di Hassan, ma sicuramente fra quelli di più ampio respiro. Se vuoi, Edo, poi possiamo renderne qualche estratto. Sì, va bene, c'era anche Massimo e la voleva leggere, quindi volentieri. Anche Massimo, certo, assolutamente. Ho letto prima un pezzo e adesso leggo, quello era l'inizio, leggo la chiusa. L'amore è duro, rigido, nudo. Ebbene, sono già cadute gocce d'acqua, grandine sul grano spezzato. Su un Iraq quieto, il fango sepolcrale si è alzato nel buio silenzioso, a coprire il mio corpo, a uccidermi lentamente. Il fango sepolcrale sta camminando come il buio. Io trattengo il fiato o un grido. Però l'amore era duro anche nel sogno. La terra tra i due fiumi è sembrata spogliata della sua acqua, caduta, sconfitta, crollata. Ho detto addio all'Iraq, ho udito l'inno di Ur, traditrice. Per la battaglia l'incendio si alzerà lentamente. È caduta, urla grande. Il paese che è come vuole essere. Ecco, questa sono spesso evocano immagini dolorose, no? Anche di sofferenza. A quel punto mi sorge una domanda, no? Perché Edo nella sua prefazione a un certo punto lo associa fino a un certo punto con il pessimismo leopardiano, no? E vorrei che si affrontasse questo argomento, perché per chi ha conosciuto Hassan forse è importante poterlo, perché Edo, tu a un certo punto parli, no, di un vitalismo, no, della poetica di Hassan. Sì, penso che se non ci fosse stata da parte sua una capacità straordinaria, appunto, di rispondere e di reagire a questa situazione fin dai 20 anni che ha avuto, insomma, fin dall'esilio di fatto, insomma, più o meno formale sia, dall'Iraq e poi da tutta la vicenda successiva, ecco, forse non saremmo neanche qui a parlare di quello che di fatto è uno dei poeti d'esilio, di uno dei poeti iracheni degli ultimi decenni più importanti, e sicuramente uno dei poeti d'esilio sempre degli ultimi decenni, degli ultimi anni, fra i più importanti che ci sono stati, già studiato fra l'altro persino in lavori di ricerca accademici quando era ancora vivente, da università spagnole all'università di Sydney all'università di Montpellier. E io penso che appunto questo esilio fisico e psicologico e questa vicenda, se anche ha delle venature molto dure, anche appunto molto difficili, non sia riconducibile strettamente, diciamo, a un pessimismo poetico, ma anzi dia vita a un mondo, a un universo di senso, di giochi di senso, di immagini, di immaginari, di tensioni psichiche e ontologiche che si traducono in poesia, e proprio di un vitalismo anche poetico molto forte. C'è una poesia molto bella negli inediti che pubblichiamo nella nuova edizione del Labirinto, che è Vino, che è un ode a quella che era, diciamo, come lo definisce lui, insomma, il suo veleno preferito che ci rimane anche nelle vene anche quando verremo restituiti all'antica disarmonia, come lui scrive. E quindi, ecco, penso che tutto questo poi non solo sia stato un qualcosa di molto di apparentemente paradossalmente molto prolifico, ma sia stato proprio un vero e proprio mondo poetico che lui è riuscito a creare, gettando continuamente ponti fra Oriente e Occidente. Volevi aggiungere qualcosa, Massimo? A chi gli rimproverava di bere, Hassan ricordava che Hitler era astemio. E mi sembra, sì, che sia un giusto appunto. Era anche vegetariano Hitler, ci tengo a dirlo, giusto che si sappia. Ecco, ricollegandomi un po' anche a quello che è stato il tema in discussione oggi pomeriggio, no? Di poesia di strada, e Hassan sicuramente ha vissuto la strada, e l'ha vissuta spesso e volentieri con compagni di strada, no? Alcune volte con compagni di bevute, alcune volte spesso anche da solo, no? E gli ultimi istanti della sua vita ce lo hanno riconsegnato, no? Anche se poi l'ho conosciuto tardi, l'ho conosciuto attraverso un carissimo amico e compagno nostro, e andando al suo funerale sono rimasto colpito dalla numerosissima e diversa presenza di persone che hanno rappresentato qualcosa nella sua vita, no? Che lo hanno accompagnato in un pezzettino della strada, del suo percorso. Però questo elemento della solitudine, che poi ce lo ritroviamo, no? In questa raccolta. Allora, Volevi dire? Che a tal proposito, se ce lo concedi, c'è un testo molto bello che ha in mano Jonathan a tal proposito, che si chiama Protesta, che secondo me è uno dei testi che esprime bene questo senso di solitudine e l'incontro fra solitudini che Hassan trovava nella sua poesia quotidiana. Ai tuoi occhi lupeschi, la notte protesta. Una fanciulla viene dalle coste dell'acqua e dal mare, delle ceneri, delle città che non sorridono. I suoi occhi, timidezze, oppure una camicia grigia. Ma acqua, mare, sale, le spiagge protestano. Tu fuggi nella tenda dei treni tranquilli, dice la guardia serale. La città chiuderà le porte, ma quando verrà chiara, come galleggerà in questo mare tenebroso? Dicono le donne anziane, Chiara non passa lontano dalla costa, perché lei, pace nella terra, è guerra con se stessa. I suoi occhi confini, vicini, senza confini, si accosta, si scosta. I suoi pesci volatili scompaiono perché Chiara non ha affari nella notte. I suoi occhi come regni di silenzio, i suoi occhi, due primavere senza autunno. Non so se le lacrime conoscano i tuoi occhi, la tranquillità, pace, silenzio. Tu sei la mia riva, che mi getta nel mare un'altra volta. Sei canto che non ha paese, sei nebbia triste sui calici dei poeti. Ha scritto il poeta, se Chiara non sorride, io tornerò con la mia valigia a paesi antichi, paese mio. Verso sabbie soffocate dal buio, verso il buio che copre il nostro viso, la nostra erba. Verso la camicia grigia, verso il sale del mare che dipinge la terra. Verso uno scirocco che ferisce, erbe, foglie e si stende verso i fiori del male, all'esilio, all'Iraq, al mio ritorno, o mai. A Chiara, che sorgerà dalla finestra della mia casa povera che non sorride se lei non sorride. Io ritornerò, ma dove? La notte, a terra tenebrosa, gli occhi del lupo galleggiano nel buio. La notte, ferma, senza protestare, io lascio i tuoi occhi lupeschi, soli, soli. Hassan. Mi è piaciuto Jonathan e ti volevo fare una domanda perché me l'hai fatta venire in mente. Tu gliel'hai sentita leggere questa poesia? No, purtroppo no, perché Hassan aveva un carattere molto delicato come un fiore, nel senso si vergognava di profumare, di essere bello e colorato, per cui era molto timido, diciamo, e non amava leggere le sue cose e si imbarazzava anche quando vedeva che gli altri, o quando assisteva, che ne so, a omaggi e a spettacoli dedicati a lui, e quindi a amici poeti o anche attori che leggevano, interpretavano le sue cose, e era veramente racchiuso in se stesso, aveva una delicatezza sconfinata, per cui non gli ho mai sentito pronunciare una sola parola scritta da lui. Edo. No, magari Edoardo ha avuto più fortuna di me, ecco. Sicuramente. Che sta agitando la mano. No, no, per l'amor del cielo. Io poi ho avuto la sfortuna di incontrarlo solo negli ultimi anni della sua vita, e quindi in una fase in cui anche la luce umana che aveva si stava inevitabilmente spengendo. Insomma, era un saluto dichiarato quello che ho conosciuto io. Comunque, vabbè, se Edoardo invece ha un'esperienza migliore. No, meglio. Raccontaci un Hassan vivo che correva dietro le ragazze, questo vogliamo, cioè, il gossip. No, era solo, diciamo, per darti ragione e smentirti un po' allo stesso tempo, nel senso che è vero che Hassan era un po' così caratterialmente, però se ti ricordi ci sono state alcune iniziative, fra cui quella di Affluenti a San Salvi dell'anno scorso, dove Hassan Nati al-Nassar ci ha regalato delle sue letture dal vivo bellissime, di testi in arabo. In arabo. Di testi scritti in arabo. E qui tu mi hai fatto proprio un assist al prossimo argomento che volevo affrontare, perché questo esilio, questa lacerazione tra queste due madri è anche una lacerazione tra due lingue, no? perché lui passa da scrittore, da poeta, da intellettuale, da giornalista, come avete detto, arabo, in lingua araba, a poeta, scrittore, uomo politico anche, in lingua italiana. E noi sappiamo bene, perché per tutti quanti gli esseri umani il passaggio da una lingua all'altra è un passaggio complesso, no? Quando una lingua ti entra dentro veramente, cominci a sognare in quella lingua. E dato che la poesia è una specie di linguaggio onirico, però consapevole, cosciente, scelto, ecco... No, dicevo, è un linguaggio dell'anima, come il sogno. Esatto. È l'affermazione del desiderio, l'affermazione di sé, la poesia. È qualsiasi forma di arte diviene l'affermazione di sé, comunque lo spirito umano che si racconta. La poesia poi ha tutta una sua, tra virgolette, grammatica particolare e unica, del resto come il sogno. No, sono d'accordo con te, anch'io quando ho vissuto in Francia, a un certo momento ho iniziato a sognare in francese. Questa cosa mi sconvolgeva positivamente, delle polluzioni mattutine felicissime. Lui passa dalla lingua araba alla lingua italiana, con la mediazione del francese, ma insomma, consideriamo che l'arabo scritto è una lingua senza le vocali, molto legata a giochi di senso, di parole, molto ancorata alle radici delle parole. Con la radice della parola si compongono verbi, aggettivi, sostantivi, che mantengono molto più che nelle nostre lingue fortemente il richiamo a tutto il resto che c'è dietro questa parola. Ed è una lingua al tempo stesso da leggere e da declamare. La si parla anche con un tono di voce diverso da quello che usiamo in italiano. Questo dico solo che ha una bellissima musicalità. Al funerale un amico di Hasan lesse una stupenda poesia in arabo che ovviamente io non compresi un H, diciamo, però rimasi rapito dalla bellezza musicale del tono, diciamo. Non si capiva, ma si capiva, no? Come molte volte quando si sente il dialetto ma non l'italiano fa questo effetto. E tra l'altro l'arabo si scrive in un certo modo che è esteticamente apprezzabile e esteticamente elaborato anche, per cui Hasan lascia tutto questo e ricrea tutto questo nella sua poesia con la lingua italiana, tanto è vero che molte volte io noto che lui riesce comunque a descrivere con molta precisione immagini concrete e immagini oniriche con altrettanta precisione, bambini che hanno in mano coltelli fatti di marmo, no? E te ti sembra di vederlo, ma cosa sta vedendo? Certe volte deve ricorrere a un altro artificio, cioè dire: io ho visto questa cosa, ma potrebbe essere quest'altra. Io dormivo, ma forse ero sveglio, perché l'italiano probabilmente non gli dava quella strumentazione per esprimere la contemporaneità degli stati d'animo e dei riferimenti. Allora si fermava e cambiava riferimento e ne informava il lettore, quindi il suo sì è un esilio psicologico, ma molto consapevole dei meccanismi psicologici e dei mezzi linguistici. Ed è questo infatti su cui volevo continuare e fare l'altra domanda, perché noi, o meglio, voi state facendo una ricerca sui vari manoscritti che lui ha lasciato in casa sua, no? E volevo chiedervi se siete in grado di ricostruire la genesi di queste poesie, cioè se siete in grado di capire se lui le ha stese, le ha partorite, le ha cominciato a scrivere direttamente nella lingua italiana, oppure se hanno un'origine invece in lingua araba. Questo è uno dei temi che stiamo cercando appunto di capire noi stessi, nel senso che se tu ci avessi fatto questa domanda fino a qualche mese fa, probabilmente noi tutti ti avremmo risposto No, vedrai che sicuramente Hassan scrive i suoi testi direttamente in italiano, perché non abbiamo mai, diciamo, a parte i testi in arabo, appunto, che quindi forse un po' più di qualche mese fa, diciamo fino a qualche anno fa, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare già l'anno scorso a San Salvi. Però ecco, avevamo la sensazione che lui scrivesse direttamente le prime stesure in italiano, anche perché lui stesso una volta, ricordo, mi disse che non trovava qua a Firenze degli eventuali traduttori dall'arabo. Quindi almeno io davo quasi per assodato che Hassan, diciamo, avesse negli anni acquisito talmente bene in qualche modo la lingua italiana da avere una padronanza tale da permettergli di scrivere già le prime stesure in italiano senza nessun problema. Però questo, diciamo, poi il discorso è un po' complicato nel momento in cui, in questo lavoro di ricerca che stiamo facendo, diciamo, nella sua abitazione, che è veramente un archivio domestico dopo la scomparsa, stanno emergendo molti testi manoscritti, anche molti testi poetici manoscritti in arabo. La cosa un po' particolare è che sembrano non esserci per adesso delle ibridazioni, cioè sembrano esserci sia testi manoscritti e dattiloscritti soprattutto in italiano, fra cui alcune prime stesure a mano di quelli che poi sono diventati i suoi testi più importanti, ma anche appunto altri testi scritti a mano in arabo. Però non ci sono, diciamo, per esempio, testi scritti in arabo appuntati in italiano, oppure scritti in italiano e appuntati in arabo. Quindi sembrerebbe che la cosa sia sicuramente un po' più complessa, che evidentemente, anche come potevamo poi ricavare dalla lettura dei testi in arabo che lui fece con noi di Affluenti dall'anno scorso, della produzione in arabo da parte sua evidentemente in questi anni c'è stata, cosa che ora ci documenta con ogni probabilità. Si tratta a questo punto di tradurla, ecco, di tradurre questi testi e capire bene di cosa si tratta, però con ogni probabilità sono testi scritti da lui e quindi probabilmente c'è stata una produzione in arabo in questi anni. Però ecco, sembrano essere due piani comunque abbastanza distinti per lui, almeno a livello di produzione concreta, ecco, insomma, sembra distinguere abbastanza la produzione in arabo da quella in italiano. Che ci permetterebbe a questo punto anche di riuscire un po' a rispondere all'interrogativo che si stava ponendo Massimo, no? Perché ovviamente la lingua araba ti dà la possibilità di giocare con i significati, i significanti. Ciò non dico che non si può fare in italiano, però sicuramente si fa in modo diverso, no? E quindi se questo lavoro sarà preziosissimo anche per questo. Sì, una cosa che mi viene in mente da aggiungere è che, per quanto ne sappiamo, questi testi potrebbero anche essere eventuali prime stesure in arabo di testi che poi sono stati riscritti o tradotti in italiano. Però ecco, attualmente dobbiamo prima sviluppare l'eventuale lavoro di traduzione su questi testi. Per adesso non ne possiamo avere una vera e propria prova tangibile, perché appunto fra i testi scritti in arabo e quelli scritti in italiano c'è una linea di demarcazione, almeno a livello di produzione concreta, testuale, per ora abbastanza sembra definita. Ma non avevamo in piano di contattare l'ambasciata irachena? No, ora non è una battuta, sono serio. Chi meglio di loro? A parte, non aveva in piano, appena abbiamo provato a accennare questa cosa alla comunità irachena, ho detto lasciate perdere, insomma, non avete idea di dove vi andate a infilare, insomma, quindi ecco. Visto che il mondo accademico italiano forse non è stato in grado, no, di comprendere, o non ha voluto, o non so, comunque insomma non si è incontrato con Hassan, o meglio, in parte c'è stato questo incontro, perché a Palermo o in altre situazioni lui ha partecipato, forse anche Hassan stesso era comunque, aveva una personalità piuttosto schiva rispetto a certi ambienti, però forse alcune facoltà italiane come l'Orientale o come Venezia potrebbero correre in aiuto su questo. Hassan ha fatto un dottorato di ricerca all'Orientale di Napoli, è laureato in lettere e filosofia qua a Firenze, ha fatto un dottorato di ricerca forse non terminato, di cui stiamo trovando tracce di tutta questa documentazione anche accademica sia in Iraq che in Italia, appunto all'Orientale di Napoli ha fatto il dottorato, e il rapporto con l'ambiente culturale italiano è anche lì, diciamo, ibrido, nel senso che ci sono state degli interessamenti anche significativi nei confronti di Hassan, penso per esempio nel 2012, quando lui è stato a Palermo in occasione dell'incontro Islam in Sicilia, un giardino fra due civiltà, durante e dove ha letto appunto l'ultimo pianto di Urra. È stato invitato e ha partecipato con l'ultimo pianto di Urra a questo incontro che era nel mare, nell'isola in Sicilia, nel mare fra le terre. E questo è stato uno, diciamo, dei riconoscimenti che lui ha avuto in Italia. Non è stato l'unico, ha vinto, se non sbaglio, un premio anche a Caltagirone negli anni. Comunque, insomma, ci sono stati dei riconoscimenti da parte del mondo letterario, soprattutto anche un interesse a livello, diciamo, non so dire accademico, però insomma nelle università si sono anche interessati Rassan in Italia, a Montpellier, persino all'università di Sydney. E fra l'altro lui è inserito in quella che probabilmente è, se non la prima, una delle prime antologie di poesia della migrazione in italiano, che è Ai confini del verso, del 2006, se non sbaglio, curata da Mia Lecomte, che è un intellettuale francese che si occupa molto di letteratura italiana e conosce molto bene Hassan, quindi anche di letteratura della migrazione. Però allo stesso tempo c'è stato sicuramente anche questa attenzione c'è stata, ma non con l'adeguata, secondo me, pienezza con cui poteva e doveva esserci, e quindi un po' questo esilio ha riguardato sicuramente anche il rapporto con questo mondo culturale, ecco. E potrebbe in un certo senso venire incontro e rispondere a quello che pone Marco nella postfazione, perché lui diceva giustamente che se il francese, l'inglese ha ricevuto l'apporto di poeti che vengono da oltremare, la lingua italiana ha avuto una sorte diversa. Esistono, Marco dice, alcuni esempi, ma sono isolati, no? Da questo punto di vista Hassan è un contributo importante, perché è un poeta di un'altra lingua che sposa la nostra e che si esprime con la nostra, con i codici della nostra, e quindi sicuramente potrebbe essere interessante da questo punto di vista. Un'ultima... Dimmi, Jonathan. Ma giusto per correttezza va detto, ma con quale grazia poi? Non è che sia goffo danzando con la lingua italiana, al contrario, voglio dire, maestro, abbiamo solo da imparare. Quella che ho letto io, vabbè, la conoscevo già, ma mi ha impressionato rileggendola, mi ha impressionato per alcune figure retoriche, che io sono un grande amante della figura retorica, perché la trovo molto divertente, perché credo nella musicalità della poesia. E Hassan ci giocava anche lui, era un maestro sinfonico, il nostro Hassan. Vabbè. Voi che lo avete conosciuto anche direttamente, sapete se nel momento in cui lui scriveva, componeva, anche curava l'edizione, no? In questo caso per esempio del Labirinto, se pensava a qualcuno, a qualcuna a cui rivolgersi? Ma qualche spunto poi lascio la parola anche agli altri su questo tema. Cioè, ci sono varie, mi sembra, soggetti fra virgolette, insomma, più o meno reali o psicologici nelle sue poesie. Cioè, tanti personaggi che emergono, che possono essere, a cui lui stesso si rivolge poeticamente, come per esempio questo personaggio di Chiara che cita in questo testo, possono essere personaggi biografici, a volte che lui stesso rielaborava, in qualche modo reinventava poeticamente, a volte sono anche proprio personaggi che rimandano o a un immaginario del mondo arabo, della tradizione irachena, o anche per esempio del mondo biblico. C'è un testo molto bello che è Terra nella Terra, che è il testo che apre il Labirinto, dove lui si rivolge continuamente a questo O figlio di Adamo, no? Che è un'allegoria, diciamo, di come lui percepiva, perché lui è stato un uomo politico. Noi oggi qui abbiamo parlato del ruolo sociale della poesia, abbiamo parlato, no? Del ruolo anche emancipatorio che può avere la poesia. Da questo punto di vista io perciò no, mi è venuta in mente questa domanda oggi ascoltando e stavo riflettendo su Hassan e stavo... Lui è stato, ha frequentato quasi sicuramente gli ambienti della sinistra irachena quando era ancora là, prima dell'esilio, forse anche proprio il Partito Comunista Iracheno, che poi sembra anche, con cui sembra poi aver mantenuto contatti per un certo periodo anche quando era qua in Italia, e sicuramente negli anni, insomma, è stato vicino anche molto agli ambienti della sinistra anche qua in Italia, sì. Quindi, cioè, stiamo trovando in questo archivio domestico anche dei suoi scritti politici, soprattutto degli anni 80-90 mi sembra, riguardo alla situazione del regime iracheno relativamente a quella internazionale. E a questo punto vi rivolgo l'ultima veramente domanda, e con cui poi insomma vi lascio, anche se volete leggere gli ultimi versi, ed è la domanda che mi è sorta oggi studiando il testo che mi hai dato. Da questo labirinto c'è possibilità di uscita? Si esce da questo labirinto? Io la risposta velocissima, poi lascio la parola agli altri, che è come se ti dicessi come finisce, se è stato a vedere un film, sì, come finisce, per cui cioè, nel senso l'importante è porsi la domanda, quindi appunto volersi chiedere se c'è una via uscita da questo labirinto. Però io penso che il gioco di Senso di Hassan forse proprio nel portarci dentro questo labirinto e provare a farcelo scoprire a noi se c'è una via uscita oppure no, senza dircelo. Quando Edoardo diceva Hassan, si rivolgeva a volte a persone che conosceva e a volte a figure dell'antichità o del mito. E in una di queste allocuzioni che lui fa a questi grandi dà forse una risposta, però una risposta ambivalente. Ur, chi non ti ha conosciuto, chi non ha conosciuto Abramo, Gilgamesh, Hassan al-Nassar, non può capire cosa sia la sofferenza. Tu sei Adamo nella luce cieca e la vita che hai avuto non è uguale a quella di tutti. C'è via d'uscita al labirinto? Mi pare che la risposta di Hassan sia stata la morte, per cui sì, certo che c'è uscita, la stessa per tutti. Senza bisogno di fare antologie poetiche, che ogni giorno è una poesia nuova da cantare. L'uscita dal labirinto non lo so quale sia. La nostra è più che altro un tentativo di fuggire dal labirinto, ma rimaniamo sempre intrappolati. Al massimo troviamo delle pareti a specchio che ci danno l'illusione dell'uscita, della fuga. Però Hassan, che ci guarda da lassù, come l'angelo che era, che è stato, ci ha insegnato che l'unica fuga possibile è un bel bicchiere di vino. Va bene. Saluto allora tutti quanti i nostri radioascoltatori, i compagni che ci hanno qui presentato, li ringrazio. Grazie e a voi. Dove li possiamo trovare questo libro? Allora, la nuova edizione del Labirinto esce in questi giorni con Edizione Ensemble, si troverà sia sul catalogo di Edizione Ensemble come primo titolo della collana di Affluenti, e sicuramente dalle prossime iniziative lo troverete ai banchini, alle iniziative di Affluenti Nuova Poesia Fiorentina, e speriamo tanto che riuscirà ad arrivare anche in libreria. Perfetto, arrivederci, buona serata. Wombat. All we hear is Radio Wombat.